Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Sesta favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Perché la notte fuggiva, anzi volava, la signora ordinò che la signora Chiara la sua favola incominciasse, la quale, levatasi da sedere e postasi in luogo più eminente, perciò che era picciola, così a dire incominciò. Favola sesta. Lucetta, madre di Lucilio, figliuolo disutile da poco, il manda per ritrovare il buon dì, ed egli il trova, e con la quarta parte di un tesoro a casa ritorna. Ho inteso, gentilissime donne, dagli savi del mondo, che la fortuna aiuta i vigilanti e scaccia quelli che sono timidi e paurosi, e che questo sia il vero, dimostrerollo con una breve favola, la qual vi fia di diletto e contento. In Cesena, nobil città della Romagna, presso la quale corre il fiume detto Savio, trovavasi una vedovella, povera ma da bene, e Lucetta si chiamava. Costei aveva un figliuolo, il più disutile, il più sonnacchioso che mai la natura creasse, il quale, più che era andato a dormire, non si levava di letto fino a mezzogiorno, e levandosi sbadigliava e stropicciavasi gli occhi, distendendo le braccia e i piedi per lo letto come vil poltrone, di che la madre ne sentiva grandissima passione, perché sperava che egli dovesse essere il bastone della sua vecchiezza. Onde, per farlo sollecito, vigilante e accorto, lo ammaestrava ogni giorno, dicendogli: «Figliuol mio, l'uomo diligente ha veduto che vuole avere il buon dì, deve svegliarsi a buon'ora, nel far del giorno, perché la fortuna porge aiuto a vigilanti, e non a quelli che dormono. Onde, se prenderai, figliuolo mio, il mio consiglio, tu troverai il buon dì, e ne rimarrai contento». Lucilio, che così era il nome del figliuolo, ignorante più che l'ignoranzia, non intendeva la madre, ma riguardando alla scorza e non alla mente delle parole, eccitato dall'alto e profondo sonno, si partì e andò fuori d'una porta della città e si pose a dormire attraverso la strada all'aria, dove impediva questi e quelli che venivano nella città e parimenti che andavano fuori. Avenne per avventura che quella notte tre cittadini cesenni erano andati fuori della città per cavare un certo tesoro che trovato avevano e portarselo a casa. Poiché l'ebbero cavato, volendolo portar nella città, si scontrarono in Lucilio, che sopra la strada giaceva. Non però allora dormiva, ma stavasi vigilante per trovar il buon dì, sì come ammaestrato l'aveva la madre. A cui il primo degli tre cittadini, indi passando, disse: «Amico mio, ti sia il buon giorno!» Ed ei rispose: «Ne ho uno!» De giorni intendendo. Il giovane cittadino, conscio del tesoro, interpretando altrimenti le parole di quello che erano dette, pensò che dicesse di sé, il che non è maraviglia, perciò che è scritto che quelli che sono colpevoli pensano sempre che in tutte le cose si parli di sé. Passando il secondo, similmente salutollo e diegli il buon giorno. Lucilio allora replicando disse averne duoi, intendendo di buoni giorni. L'ultimo, passando, anco egli porse medesimamente il buongiorno a costui. Allora Lucilio, tutto allegro, levatosi in piedi, «Li ho tutti tre», disse, «ed emmi successo prosperamente il mio disegno», volendo dire che egli aveva tre buoni dì. I cittadini, temendo forte che il giovane andasse al rettore a manifestarli, chiamatolo a sé e raccontatogli il caso, lo fecero compagno nel tesoro, dandogli la quarta parte di quello. Il giovane, allegramente tolta la parte sua, andò a casa e diela alla madre sua, dicendole: «Madre, la grazia di Dio è stata con esso meco, perciò che seguendo i vostri comandamenti trovai il buon dì. Togliete questa danari e servateli per lo viver vostro». La madre, lieta per gli avuti danari, confortò il figliuolo a star vigilante, acciò che gli avvenissero degli altri buoni giorni simili a questo. Fine della storia. Vedendo la signora che la favola da Madonna Chiara raccontata era venuta al termine, la pregò che per contentamento suo volesse proporre un enimma, acciò che non si conturbasse l'incominciato ordine. Ella, che non fu mai villana, con lieto viso lo propose, così dicendo: «Diverse volontà, vari animali, nel mondo già produsse alta natura. Una spezie ve n'è tra questi tali, di sì benigna, sì gentil natura, che il cieco padre per vecchiezza l'ali, più non oprando al suo viver procura, e per non esser detto al mondo ingrato, nel nido il pasce che egli apparecchiato. Altro non dimostra il mio proposto enimma che la gratitudine, sottospezie di un uccello chiamato Pola, il qual, veggendo il padre per vecchiezza non poter più volare, gli mostra gratitudine, preparandogli il nido e dandogli il cibo con cui si nutrisce fino alla morte». Fine della sesta favola della 13ª notte.